vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 marzo, il sole in regione sorto alle 6.30 e tramonterà alle 18.12. Oggi c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. In apertura, il nuovo regolamento quadro dell'Unione Europea in fatto di indicazioni geografiche. Di stampo prettamente primaverile, il corsivo di Licio Damiani intitolato Una ventata di petali bianchi. La liquirizia, una leguminosa aromatica che con qualche accorgimento si può coltivare anche da noi. La tecnica del salasso e la rimozione dei semi come tecnica correttiva della macerazione del pigiato. Per la rubrica dei grandi alberi, di scena il tiglio del palazzo veneziano di Malborghetto. È uno dei principi tra i risotti primaverili, quello con gli urticions oppure bruscandoli o qualsivoglia luppolo. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Dall'Europa arrivano nuove norme per le indicazioni geografiche che riguardano vini, bevande e prodotti alimentari. Un cambiamento per quanto riguarda l'agri-food. Ne parliamo oggi con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Siamo di fronte alla nuova selva di disposizioni? Ma allora, diciamo che questo vorrebbe essere sostanzialmente un testo unico, diremmo in Italia, no? Quindi il raggruppamento di norme che prima erano sparpagliate in vari regolamenti e per varie tipologie di alimenti. In particolare c'era il grande gruppo dei vini e delle cosiddette bevande spiritose che avevano i loro regolamenti, e dall'altra parte c'erano i prodotti alimentari. E adesso finalmente, insomma, si giunge a un unico testo legislativo che li raggruppa entrambi. Cosa può cambiare per chi lavora in questo settore? Ma allora, nei lanci di agenzia si parla tanto di semplificazione. Diciamo che questo regolamento in realtà abbraccia, se vogliamo, il modello italiano delle procedure e del governo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Detta dei tempi certi sulle procedure di nuove registrazioni e di modifica dei disciplinari, si tratta ora di verificare che questa semplificazione che esce dalla porta, no, del regolamento comunitario non rientri poi dalla finestra di decreti ministeriali che nell'attuazione di questo regolamento rischiano poi di ricomplicare cose che si volevano semplificare. Sì, perché tutto questo regolamento deve essere recepito dal governo italiano. Allora, il regolamento, come tutti i regolamenti comunitari, è direttamente applicabile negli Stati membri, ma naturalmente demanda alcune materie alla legislazione nazionale. Soprattutto per quanto riguarda il vino, perché pare che abbiano messo l'accento su questo. Cosa abbiamo? Quale novità? Ma in realtà, per quanto ho potuto verificare io, diciamo, la parte del vitivinicolo rimane abbastanza simile alle procedure attuali. C'è una cosa da dire che secondo me è importante, che c'è un rafforzamento significativo del ruolo dei consorzi di tutela, anche e soprattutto nell'introduzione dentro i disciplinari di produzione di norme che riguardano la sostenibilità. Non solo sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale ed economica. E questo è un punto fondamentale, perché noi sappiamo che dietro una denominazione forte c'è sempre un consorzio forte. Per quanto riguarda appunto la sostenibilità, è quella che un attimino ha fatto sollevare parecchie perplessità. Vediamo le proteste dei trattori degli ultimi giorni. Ma sì, diciamo che l'orientamento dell'attuale Commissione europea lo sappiamo, abbiamo anche visto che ultimamente ci sono stati dei correttivi. In questo regolamento però, diciamo, c'è un richiamo abbastanza, come posso dire, generico ai temi della sostenibilità, lasciando poi appunto agli organismi associativi e ai consorzi di tutela il ruolo di interpretarlo nelle realtà locali. Se non ho capito male, siamo di fronte all'ennesima ordinaria burocrazia. Beh, speriamo di no, nel senso che alcune procedure si volevano per esempio affidare alle UIPO, cioè l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale. L'EUIPO in realtà avrà un ruolo fondamentale nel verificare che non ci siano usurpazioni, che non ci siano evocazioni, che non ci siano imitazioni e soprattutto che marchi commerciali privati non vadano in qualche modo a recepire nomi che sono tutelati a livello di denominazione di origine. Ecco, questo è un ruolo fondamentale. Poi per il resto, ecco, l'esame dei dossier rimarrà sempre in capo alla Commissione europea, con una doppia procedura, quindi con una fase di verifica nazionale e poi con una fase di verifica cosiddetta unionale. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo una ventata di petali bianchi in onda il 7 marzo del 1993. È iniziata quella che veniva chiamata la prima lunazione. Talune radici fanno scoppiare le loro scorze e si mettono allo scoperto per meglio assorbire il nutrimento della terra. Erano i giorni in cui in antico vigeva la consuetudine per le fanciulle di camminare all'alba a piedi nudi sui prati coperti di rugiada in un rituale magico e propiziatorio di fertilità. Le gemme si spogliano del guscio che le proteggeva dalle gelate. Alcuni arbusti come il pruno, la forsizia e il pirus dalle piccole corolle color rubino sono prossime alla fioritura e nei giardini più riparati sono già sbocciati i fiori di mandorlo. Ho visto nei giorni scorsi, in un orto vicino a Palazzolo dello Stella, la ventata di petali bianchi di un mandorlo confondersi con il turbinio quieto dei fiocchi di neve. Le brevi nevicate sulla pianura friulana e a Udine hanno imbiancato anche l'altipiano carsico. In campagna hanno trasformato le prospettive ampie delle arature in una soffice coltre di candido chiarore nell'aria cinerina. E i rami degli alberi si sono ornati di un incantesimo di filigrane d'argento. Forse non tutti sanno che la liquirizia è una leguminosa che possiamo coltivare anche alle nostre latitudini, con qualche piccolo accorgimento che ci suggerisce Cristina Micheloni. Non finiscono di stupirci queste leguminose, o più correttamente fabacee, come sono state rinominate. Anche tra le aromatiche e officinali ve ne sono alcune di ben note, come la liquirizia. Pianta che ama il caldo, ma resiste bene anche a temperature sotto lo zero, quindi diffuse e di casa al sud, ma coltivabili anche nei nostri giardini, scegliendo le aree magari più assolate e protette dai venti. Proviene dall'Asia più remota ed era nota ed utilizzata come medicamentosa in Cina sin da tempi davvero lontani. Si è poi avvicinata a noi attraverso gli Egizi, gli Assiri, i Greci, per arrivare in Calabria con i monaci benedettini verso l'anno 1000 e assurgere a tipicità con notevole valore commerciale nel 1700, da lì le famose radici, rotelle, confetti, liquori. Ma come detto si può coltivare anche nella parte più protetta dei nostri orti e giardini ed anche in vaso, ma non sottovalutate lo spazio necessario, dato che si usano le radici dobbiamo dar loro lo spazio e il tempo per svilupparsi sufficientemente. È una pianta perenne che però d'inverno si secca completamente e a primavera riparte da zero, raggiunge un'altezza di 1,5 metri più o meno e soffre il ristagno, quindi va seminata, o meglio, trapiantata. Le piantine le trovate in diversi vivai e potete anche chiedere una radice a qualche conoscente che ce l'ha in giardino. Va quindi trapiantata in un terreno ben drenante, profondo, leggero e privo di sassi. Fate conto di dover coltivare delle carote, quello è il terreno giusto. D'estate vi regalerà dei piccoli fiori rosati riuniti in infiorescenze, un interessante aroma attraverso la parte delle foglie, la parte vegetale, e dopo 3 o 4 anni anche delle radici delle dimensioni tali da poter essere utilizzate. Non ha grandi necessità di fertilizzazione, è pur sempre una leguminosa. Gradisce un po' d'acqua a primavera, ma poi ce la fa benissimo da sola. È bella rustica e se la teniamo con i piedi asciutti non dovrebbe andare incontro a patogeni o parassiti, quindi una pianta che fa da sé e non soffre troppo gli eventi estremi del meteo. La questione dello spazio. Nell'estate si sviluppa in altezza e in larghezza in modo abbastanza vigoroso, quindi le piante vanno distanziate di almeno 50-60 cm tra di loro e un buon metro tra le file. All'arrivo del freddo, più o meno a novembre-dicembre, la pianta va in totale stasi vegetativa. Si può quindi tagliare tutta la vegetazione dell'anno, perché nella successiva primavera ricaccerà dalla base. Il periodo della stasi è quello in cui si raccolgono anche le radici più grosse per l'utilizzo, ma attenzione, non vanno danneggiate le altre, che invece serviranno per la continuazione della pianta. Si raccolgono le radici da circa 3 anni in poi, ma se siete un po' più pazienti, le dimensioni del rizoma vi daranno maggiore soddisfazione. La macerazione del pigiato, la correzione del mosto con salasso o l'eliminazione dei semi. Questo è il titolo del contributo di oggi del professor Roberto Zironi per la rubrica del vino. Il mercato attuale del vino valorizza i vini rossi con forte intensità di colore e di corpo. Negli ultimi anni le uve arrivano a grandi potenziali alcolici pH molto elevati prima del solito, inducendo un anticipo della vendemmia, ma le uve possono presentare nella buccia, specialmente nelle annate poco favorevoli, un più ridotto contenuto in antociani e tannini. In questi casi, durante la macerazione, si può attuare una pratica definita salasso, che consiste nel rimuovere una parte del mosto aumentando in tal modo il rapporto buccia-succo. La diminuzione della quantità di liquido a contatto con le parti solide favorisce nel vino risultante un incremento del colore, dei tannini e dei sentori olfattivi fruttati. La parte di mosto prelevata viene vinificata in bianco con produzione di vini rosati. Quindi attraverso questa tecnica, dalle stesse uve, lavorate in maniera distinta, si ottengono due diverse tipologie di vino, un rosso e un rosato. Il salasso del mosto dal maceratore può venire dopo poche ore dall'avvio della macerazione, ma anche dopo 24 ore e oltre. Tutto dipende dalle caratteristiche del vino che il produttore intende ottenere. La parte di mosto estratto solitamente corrisponde al 10-30% del mosto totale ed il restante 90-70% è destinato alla produzione del vino rosso. Per aumentare il corpo del vino, gli enologi tendono a produrre vini con elevato contenuto di tannini. Tuttavia, l'eccessiva estrazione di composti fenolici può in certi casi portare a vini troppo astringenti, specialmente quando le uve non sono sufficientemente mature. I vini rossi elaborati con uve poco mature presentano un'elevata proporzione di tannini dei vinaccioli, sempre astringenti, ed una bassa proporzione di tannini della buccia. Viceversa, i vini prodotti da uve ben mature presenteranno una forte quota di tannini della buccia non molto astringenti ed una bassa proporzione di tannini astringenti dei vinaccioli. Quando le uve non sono ben mature, una macerazione prolungata è quindi da evitare, dal momento che l'eccesso di estrazione di tannini dai vinaccioli porterebbe a vini troppo astringenti. Un'interessante possibilità che stanno applicando gli enologi è l'eliminazione parziale dei vinaccioli, che diminuisce nei vini la concentrazione in tannini con una riduzione del corpo, dell'intensità colorante e del tenore in antociani, ma anche dell'amaro e soprattutto della stringenza. La separazione dei vinaccioli si realizza effettuando un délestage dopo l'alzata del cappello ed eseguendo la macerazione in serbatoio con un fondo conico in cui si concentrano i semi che si sono separati dalle bucce. È evidente che l'eliminazione dei vinaccioli è raccomandata solamente nelle uve non completamente mature, ma la cui concentrazione in antociani è sufficiente a garantire ugualmente un colore rosso accettabile. È sicuramente uno dei grandi alberi più conosciuti del Friuli Venezia Giulia. È il Tiglio di Malborghetto, ce lo descrive oggi l'ispettore della forestale Dario Di Gallo per la rubrica dei grandi alberi. Continuiamo il nostro viaggio attraverso gli alberi monumentali della regione e del loro territorio, prendendo in considerazione, vista la stagione e le condizioni meteorologiche, un albero facile da visitare, ben esposto alla vista a chi percorre la vicina strada statale che da Pontebba conduce a Tarvisio, il Tiglio di Malborghetto. Posto nella prestigiosa ed elegante cornice del cortile interno dell'antico Palazzo Veneziano, imponente costruzione eretta intorno al 1580 ed oggi adibita a sede del Museo Etnografico, dell'Archivio Storico e del Sistema Bibliotecario Territoriale, con spazi dedicati per mostre e convegni. Sul lato meridionale della struttura, con bella vista sulle boscosissime pendici delle Prealpi di Malborghetto, si dispiega il bel cortile circondato su tre lati dalle storiche facciate del palazzo, al centro del quale campeggia il monumentale tiglio dal breve, nodoso e possente fusto, da cui si dischiude, alla ricerca della luce, la splendida e voluminosa chioma. L'albero sembra far parte in modo imprescindibile alla struttura, integrandosi a lei in modo così naturale e perfetto che non pare possibile pensare all'esistenza dell'una senza la presenza dell'altro. Le sue misure sono di tutto rispetto. La circonferenza sfiora i 6 metri e l'altezza raggiunge i 25. L'età stimata è intorno ai 230 anni. Il tiglio comune è un incrocio naturale tra il tiglio selvatico e il nostrale, non molto diffuso in natura. Albero sacro per molti popoli europei dei tempi antichi, in particolare per quelli slavi, mantiene nel nostro immaginario una collocazione sociale importante. Era usanza frequente piantarli nei luoghi destinati agli incontri a carattere politico o commerciale, poiché si sapeva che la sua presenza dona calma e benessere alle persone e favorisce la comprensione nelle relazioni. E la storica cornice del Palazzo Veneziano ne è un esempio unico. Risotto con gli urticioni, ovvero risotto con i bruscandoli, ma in verità stiamo parlando del luppolo, base succulenta per il risotto che oggi ci propone Roberto Zotar. Tra pochi giorni saremo ufficialmente in primavera, ma il tepore di questi giorni ci ha già indotto a qualche passeggiata all'aria aperta e a riscoprire le erbe selvatiche. Tra i germogli spontanei delle nostre campagne del Carso, il luppolo è una delle erbe più interessanti. Cresce vicino ai rovi di more, lungo i fossati o ai bordi dei boschi. Se lo vedete in giro, allora vuol dire che è proprio arrivata la bella stagione. I germogli dell'Humulus lupulus in regione sono meglio noti come bruscandoli o urtisons o sparusi selvadeghi o asparagina. Saporiti e gustosi, sono ricchi di proprietà benefiche, sono diuretici e stimolano il fegato, tanto che in Istria si dice «I sparusi e i bruscandoli ise del sangue meglio santoli, anche perché non erba che varda in su che non gabi la sua virtù». Il luppolo, quando non viene usato per la produzione della birra, è una pianta infestante, coperta di una leggera peluria, che si aggroviglia e attorciglia saldamente attorno alle siepi e ai cespugli. Pare si avvolga sempre in senso antiorario. Il fusto ha colore verde con tonalità rossastre ed è cavo. Le foglie sono verde vivo, crescono in coppia, sono dentellate e a tre punte, trilobate, e assomigliano in piccolo a quelle della vite. I bruscandoli si raccolgono prelevando gli ultimi 20 centimetri dei nuovi getti con un coltellino. I germogli sono lunghi e sottili, tanto che si dice longo come un spariso o sottila come un spariso. Sia in Friuli sia nel Veneto fanno parte della tradizione della cucina di casa. Ugo Foscolo, nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, ricordava la minestra di bruscandoli che veniva preparata dalle famiglie venete nei periodi primaverili. Gli urtisons, mondati, si possono sbollentare in acqua o saltare in padella e gustare semplicemente con olio, sale e limone, o si possono cucinare in frittata, zuppa o minestra. Per un gustoso risotto, fate appassire in un tegame uno scalogno tritato con due cucchiai d'olio. Lavate un mazzetto di bruscandoli, due etti circa, eliminate la parte legnosa dei germogli, tritatelo grossolanamente e aggiungetelo allo scalogno. Versate tre etti di riso, carnaroli o viallone nano e portate a cottura mescolando e aggiungendo man mano del brodo di verdure. Dicevano i vecchi, brodo de verdura se medicina che dura. Dopo 17 minuti mantecate con burro e parmigiano e fate riposare un attimo. Il risotto sarà particolarmente amabile perché il leggero amarognolo degli urtisons si stempererà con la cremosità del riso e la dolcezza del burro e del formaggio. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del campo di commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 18,20 e 18,40 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento tra 19,50 e 20 euro. L'orzo peso specifico 62,65 tra 18 e 18,50 e la soia tra 42,20 e 42,70. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 7,60 euro il quintale e la soia di 7,30. Operazioni in salita nel comparto dei suini, con dinamiche rivalutative per i lattondoli di 30 kg, quotati franco partenza dall'azienda a 4,58 euro al chilo, IVA esclusa. In ripresa pure i grassi da macello, che si quotano a 2,09 il chilo. Nel settore dei prodotti caseari, la Commissione Camerale di Pordenone Udine, giovedì scorso, ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 48,50 e 50,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA, e ha determinato il montaggio di 90 giorni tra 8,60 e 8,80 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90 e lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30. Nel settore dei foraggi, per abbondanza di prodotto, i prezzi sono in forte ribasso e l'erba medica di prima qualità viene quotata tra 11 e 12 euro il quintale, IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 6 e 7 euro e la paglia di cereali pressata si quota tra 6 e 8 euro il quintale. Stabilità per il prosciutto di San Daniele, lo stagionato di 16 mesi viene pagato con osso fra 13,50 e 17,50 euro il chilo IVA esclusa, quello di Sossato fra 18 e 21,50. Infine, nel comparto degli avicunicoli si conferma il disagio congiunturale e i polli a terra vengono quotati da 1,08 a 1,12 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,10 a 3,20, i tacchini maschi da 1,58 a 1,60, le uova oltre i 73 grammi provenienti dall'allevamento a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di marzo si è aperto con estrema variabilità e con temperature ben sopra la norma, seguendo la falsariga di quanto successo a fine febbraio. Nella prima settimana si è anche avuto il passaggio di due fronti atlantici più definiti, che hanno portato precipitazioni più diffuse il 6 e ieri mattina, oltre a qualche episodio temporalesco. Il tutto comunque in un contesto più primaverile che invernale. La neve è caduta in genere oltre i 1000 metri di quota, praticamente assente invece sotto i 1000 metri, ad eccezione di Forni di Sopra. Non sono mancate comunque anche giornate con il sole, che quando è uscito ha fatto salire rapidamente le temperature in pianura oltre i 15 gradi. Il mare si è mantenuto con temperature di più di 2 gradi oltre la media. Oggi ci attende un deciso peggioramento, con piogge intense in pianura e a fondovalle, vento forte in quota, con condizioni di bufera oltre i 1800 metri, dove l'accumulo di neve potrà essere consistente. Nel pomeriggio soffierà scirocco forte sulla costa, con la possibilità di mareggiate tra Lignano e Grado, e stasera potrebbe anche esserci acqua alta. Il fronte ci lascerà a mezzanotte, e domani ci sarà un netto miglioramento, con cielo da poco nuvoloso variabile, con maggiore nuvolosità di primo mattino e poi di nuovo nel pomeriggio, quando non è escluso qualche locale rovescio temporalesco o qualche debole pioggia sparsa. Infatti, per qualche giorno, rimarremo sotto l'influsso di una vasta depressione con aria fredda in quota, che manterrà il cielo nuvoloso anche martedì e mercoledì e potrà favorire una certa instabilità pomeridiana, con qualche pioggia sparsa o qualche rovescio o temporale. Le temperature minime in pianura oscilleranno tra i 3 e i 7 gradi, mentre le massime non supereranno i 16 gradi lunedì, i 14 martedì e mercoledì. Da giovedì a sabato il nord Italia sarà stretto tra una rimonta anticiclonica sulla Spagna e la Francia, una piccola depressione sul sud Italia ed un'altra piccola depressione che dalla Scandinavia scivolerà verso l'Austria. Giovedì il tempo dovrebbe essere più soleggiato, ma rimarrà il rischio di qualche rovescio pomeridiano. Venerdì potrebbero giungere correnti settentrionali e quindi potrà essere una bella giornata. Per il prossimo fine settimana il tempo rimarrà molto incerto, perciò, data la stagione e il forte anticipo, si consiglia di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se la gnot dai 40 martyrs al glace, si integnerà il freetancemò per 40 dies. Ovvero se la notte dei 40 martiri il 10 marzo ghiaccerà, rimarrà il freddo ancora per 40 giorni. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.